ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede più. A chi non ha uno specchio, e comunque non per questo, non ce la fa più. A chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre più giù. Benvenuti a Dedicato, mercoledì 12 giugno, 36esima puntata. Ragazzi, 36! Voglio dire, da ottobre a oggi 36 puntate fatte decore, proprio tutte per voi. Quindi, detto questo, oggi lo studio è vuoto dalla mia parte, pieno dall'altra parte della porta. Io sono senza mascotte, quindi attualmente in solitudine. Ma al di là della porta vetri, ragazzi, c'è il delirio, nel senso che i nostri fanciulli musicisti, dopo Eufonica, hanno ricominciato a bazzicare in studio con assiduità, diciamo. Poi adesso che la scuola è finita, sono finita anch'io insieme alla scuola, nel senso che mi perseguitano, non mi lasciano più stare. Quindi sappiate che ora vi ascoltate un'improvvisazione fantastica fatta dai nostri ragazzi. E batteria e pianoforte credo che sia, quindi insomma piacevole, simpatica. Questo la mia gioventù. Un po' di evoluzione però in sta roba ritmica qua, non so, cioè vabbè, sono la solita antipatica. Ciao, me ne vado. Prossima volta, no. Poi questa la prossima volta. Bohemian Rhapsody in un live dell'85, i Queen, in una versione assolutamente come si deve, no? Nel senso che rispetto a quella precedente dei nostri fanciulli, va bene, niente, non diciamo altro. Siete stati bravissimi ragazzi anche oggi qui in studio. In effetti voi state facendo prove, improvvisazione, state lavorando sui brani, quindi bene, bene, bene, procediamo così. Adesso invece ritorniamo uno step indietro in Eufonica 2024, perché abbiamo ancora del materiale raccolto nel laboratorio radio che abbiamo fatto appunto in fiera a Bologna il 9, il 10 e l'11 di maggio, e tutto questo materiale noi piano piano ve lo proporremo nelle nostre puntate. Quindi oggi ascoltiamo un'intervista molto interessante con tre docenti e musicisti, veramente persone avanti, quindi direi insomma intanto di ascoltarli e poi ascolteremo anche la loro musica. Noi siamo Danilo Mineo, Re Dazzine, Gaetano Alfonsi, e siamo qua oggi alla fiera Eufonica, grazie a Erika Sabedo per averci invitato a fare questa bellissima chiacchiera. Noi vi raccontiamo, siamo artisti, musicisti, ma anche conduttori e educatori, nel senso che collaboriamo con delle scuole e portiamo avanti un progetto da 2 anni. Questo progetto si chiama Cori del Mondo, è un'orchestra di bambini che suonano strumenti a percussioni e cantano. Cosa facciamo in questo percorso laboratoriale? Fondamentalmente viaggiamo attorno al mondo, metaforicamente parlando. Questo viaggio è il filo conduttore, la musica. La musica declinata nelle sue eccezioni, nel senso scopriamo le diversità linguistiche, culturali, le tradizioni musicali di tutti i popoli, dei territori dove viaggiamo con il nostro immaginario, attraverso la conoscenza degli strumenti musicali, quindi tutti gli aspetti organologici legati a uno strumento, perché uno strumento ci può raccontare tantissimo di un posto, di un popolo. Conosciamo gli strumenti e questo viaggio poi attraverso l'organologia ci serve a capire i principi, sono modelli primari per noi, per poi costruirne altri a partire da materiale di recupero. Facendo così noi abbiamo realizzato uno strumentario del tutto ecosostenibile, in modo che possono suonare anche orchestre di 200-300 bambini, nessun problema. E chiaramente questo strumentario è poi a disposizione delle scuole? Assolutamente, rimane ai bimbi, rimane, e questa parte qua è la parte forse più ludica di tutto il percorso, perché con i bimbi ci si diverte a selezionare materiali, a colorarli, assemblarli attraverso dei processi di assemblaggio, li personalizziamo, ed è molto interessante perché attraverso queste attività, ma anche per noi adulti, sono stimoli di creatività, cioè l'immaginazione, la creatività può essere tantissima. Basti pensare che una bottiglietta può diventare un veicolo sonoro che permetterà poi di fare musica o accompagnare un ritmo, un determinato ritmico, e tanto altro adesso. Dopo queste esperienze ovviamente poi c'è Redazzine, Redazzine si occupa di altri aspetti, lascio la parola a lui. Reda. Ciao, io, come lo state sentendo, mi occupo della voce, battuta a parte. No, io suono la chitarra e suono anche un altro cordofono, una specie di chitarra africana, che si chiama Gembri, Ouéjou, Jungoni, secondo le regioni, Marocco, Mauritania, Senegal, si trovano strumenti simili, cordofoni, che sono all'origine del liuto e anche della chitarra. E per cui a me piace la chitarra elettrica, ma anche questa chitarra africana. E con questi due strumenti portiamo dei canti di tradizione africane, antichi, e anche canti originali che magari sono scritti quando io ho iniziato a abitare qui in Europa, prima dell'Italia, altri paesi, eccetera, magari in francese, che sono anche lingue molto familiari a me. E la cosa importante non è per formare dei cantanti nel discorso del coro, è creare un gruppo, cioè creare una famiglia con delle sezioni, ragionare così come nella costruzione dei strumenti abbiamo delle sezioni, la stessa cosa fare questi giochi vocali che comunque molto legati anche alla tradizione di certe musiche africane, per cui è molto divertente, e soprattutto rompere la barriera che ci hanno inculcato, che oh, le lingue straniere, oh, ma tu parli francese, oh, non lo spagnolo è difficile, ma cosa dite? Io dico sempre ai ragazzi, essendo padre musicista eccetera eccetera, che questi sono miti, perché la verità è che se la cosa ci piace l'ascoltiamo, la cantiamo, e se la mettiamo insieme non c'è uno che canta meglio. Impariamo a gestire le nostre voci, le intonazioni, a anche un modo di imparare ascoltando. E questo è il discorso anche di tutto il progetto Voci del Mondo, però anche formare l'ascolto. Questo è in metà del lavoro. Stimolare. Certo. Esatto, stimolare e dire guarda, ok, però io voglio scrivere il testo. Ok, ma lo puoi scrivere, ma nel discorso del coro fino a un certo punto. Perché si deve fidare nel tuo essere. E questo gioco più collettivo e più funziona. E per cui la mia parte è questa. Facciamo insieme a Danilo e Gaetano e soprattutto i ragazzi che abbiamo insieme a noi, che tutto il coro diventa un coro con canto, botta, risposta, improvvisazioni, divertimento, tornare su un tema e poi fare di questo un arrangiamento insieme anche agli arrangiamenti percussivi o altro che fa per esempio Gaetano. Gaetano Alfonsi, quindi sei qua con noi anche tu, sì, sei del ciao. Trio. Io sono del trio, mi occupo soprattutto della conduzione, anche se poi condividiamo tutti e tre la stessa esperienza mentre siamo con i bimbi. Cosa faccio io? Dopo il duro lavoro della costruzione facciamo suonare gli strumenti a tutti i bimbi, quindi divisi in sezioni, da secchi che somigliano a tamburi, da pezzi di legno che somigliano a woodblock, eccetera, così, con dei segni, degli stacchi, delle chiamate, dei ritmi con cellule ritmiche semplici ma incastrate insieme tutti, viene fuori un bel impatto sonoro. E anche qui lo scopo è soprattutto la condivisione e il rispetto dell'altro, di quello che ti sta a fianco, di quello che suona un altro strumento, di quello che suona il tuo stesso strumento, quindi di muoversi tutti nella stessa direzione. Quindi la musica come mezzo per stare insieme, per conoscersi, per capirsi e per rispettarsi a vicenda. Rispettarsi a vicenda, anche poi condividere anche le difficoltà di chi, esatto, di chi ce le ha, di chi non le ha, di il bambino esuberante invece di quello tranquillo. Che purtroppo non è così scontato. No, appunto, però diciamo, insomma, dopo qualche ora di laboratorio i bimbi cominciano e poi si riesce appunto anche a dirigerne 100, 120 tutti insieme. Bene, oggi a Eufonica quanti ne avete? Oggi ne abbiamo 130. 130 bimbi. Sì. Di che scuola sono? Sono della quinta di Granarolo. Le quinte di Granarolo. Bene, bene. Sì. Io volevo aggiungere una cosa. Gaetano e Reda parlano, ovviamente questa parola esce sempre fuori, di tutti assieme, la condivisione. Io penso, noi pensiamo, che la musica è un linguaggio non verbale, ma è più potente delle lingue, della parola e della scrittura, perché noi abbiamo suonato tanti anni assieme e la musica ci ha portato a viaggiare nel mondo e c'erano dei limiti a volte con altri artisti mai incontrati e la musica ci ha accomunato, bastava avere lo strumento e noi ci siamo messi in connessione. Cosa voglio dire con questo? La musica è importante perché è quel mezzo che ci permette di connetterci con il mondo e con quello che noi chiamiamo diversità, ma la diversità è una ricchezza per tutti. Fare musica è una questione, una condizione mentale che ti permette di vivere e stare in mezzo alla società nel modo più positivo e friendly, come va detto, con la società. Perché è condivisione, è stare con gli altri, è dare il tuo contributo e allo stesso maniera ascoltare gli altri. Certo. Quindi il mio consiglio a chi ascolta, fate musica, nutritevi di musica, perché con la musica non ci sono guerre, non c'è nulla di brutto, ci possono essere solo cose belle, questo mi sento di dire. Viva la musica e... Grazie a voi. Dedicato e lo staff di Dedicato vi ringrazia moltissimo, Danilo Mineo, Reda Zine e Gaetano Alfonsi, di essere stati con noi, perché con questo ultimo messaggio che ci ha lanciato Danilo veramente Grazie. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Abbiamo appena ascoltato il coro di Voci del Mondo diretto da Danilo Mineo, Reda Zine e Gaetano Alfonsi, con i quali abbiamo appena parlato, quindi grazie per questo meraviglioso progetto. Gli strumenti che avete ascoltato sono tutti strumenti di materiali riciclati e riutilizzati, quindi è un percorso veramente interessante e importante anche come messaggio da dare all'interno delle nostre scuole e anche alle famiglie e ai bambini che hanno utilizzato questi strumenti, li hanno costruiti, decorati e poi suonati. Bene, i nostri fanciulli continuano a suonare al di là del vetro, io continuo a essere nella mia solitudine senza mascotte che oggi veramente non ha nessuna intenzione di palesarsi, ma sta disegnando, sta facendo compiti, sta leggendo, proprio non mi considera assolutamente, quindi io vado avanti. E dato che mi lasciano da sola, io faccio una dedica perché a dedicato si fanno anche le dediche, già funziona così. Quindi questa dedica è per una persona importantissima che mi ha chiesto un brano che probabilmente io non avrei mandato in questa trasmissione, però me l'ha chiesto questa persona importantissima e io non posso esimermi dal mandare questo brano assolutamente. La persona importantissima è importantissima, cioè insomma non volevo dirvi chi è, ma comunque è mia madre, ok? Quindi se mia madre chiede, io non posso far altro che esaudire un desiderio. Questo è per te, mammina. Nella confusione, miliardi di persone, solo un'occasione qua giù, tra l'azzurro e il buco nell'ozono. tra John Lennon, Paul e Yoko Ono. Il passato non dimentica, il futuro fa ginnastica, si prepara tutti i giorni per te. Canta un po' Alba Chiara, un po' My Way. Schiaccia il tasto rec e il tasto play. E poi così, tu sei qui, Natale in un qualsiasi lunedì. Udini che toglie le catene al mondo, in fondo un inganno non è, è solo una follia, un salto nel vento, un'ora nello spazio, un punto nel tempo, è un giorno che va via, un appuntamento, un battito perpetuo che dura un momento. Nei millenni tutti gli anni, aspettando primavera, un Platone, un Botticelli, Dumbledore. La maieutica del fai da te. Vuoi morire, vivere con me. E poi così, il tuo ritorno, eclissi in un qualsiasi mezzogiorno. Mi trasformo, cercando luce in fondo al mondo insieme. Un inganno non c'è, è solo allora, la frase che qui si dice in questo studio, che è un po' in movimento, questo studio un po' movimentato oggi, è che Romeo e Francesca sono amici di Paolo e Giulietta e vanno in discoteca tutti insieme. Mascotte, com'era la storia qua? Allora, Romeo e Giulietta sono fidanzati o è fidanzato con Francesca, Romeo? Non ho capito. Non ho capito neanch'io. No. Però, aspetti, che ci penso. Allora, no. È il libro tratto dalla... da un libro di Dante Alighieri, che è il più famoso libro di Dante Alighieri del mondo, lo conosce chiunque, che si chiama... Ah! La Divina Tristezza! La Divina Tristezza. Ma chi la conosce? Ma sì, infatti, perché la Divina Tristezza non esiste, però... sarebbero, insomma, che della Divina Commedia. Ma chi la conosce? Ma sarebbero Paolo e Francesca. Chi la conosce la Divina Senta, Commedia? Senta, mascotte, stia zitta che qua già c'è del movimento. Mamba, oggi. Tu mi mordi come un mamba. Sembra Samba. Ma cosa sta dicendo? Senta, abbiamo un ospite. Andiamo in disco. Ma la discoteca qua, lei ci va in discoteca, scusi? Assolutamente no. No. Il nostro inviato. Però via. Conosco chi ci va. Chi ci va? Qua non ci va nessuno. E in ogni caso, quando si andava a suonare da ragazzini, anni 60, primi anni 70, io stavo sempre dall'altra parte, là sopra il palco, a guardare i forsennati che c'erano anche allora. Molto bene, quindi qua già abbiamo un'idea. Ed erano veramente forsennati, perché allora non passava la droga, erano proprio forsennati. Beh, adesso che non passasse, non passavano stupefacenti, perché droga non si dice. Ecco, a parte Mascotte, che qui secondo me il nostro inviato speciale non sa cosa dice, cioè negli anni 60-70 non passava la droga. Ma non nelle balere dell'Emilia Romagna. Ma questo lo dice lei, scusi, adesso non vorrei dire, però... Quello è avvenuto dopo. Molto bene, ma questa discussione poi da cosa è nata? Da Paolo e mamma, Francesca e da... Mascotte, ma la smetti? Io sto facendo... Quei quattro lì chissà cosa combinavano. In discoteca. In discoteca. Certo, Paolo, Francesca... Cioè qua stiamo parlando di cose importanti, perché Paolo e Francesca e Romeo e Giulietta non stanno più insieme, ma Romeo sta con Francesca e Paolo sta con Giulietta. Si sono lasciati. Quindi già parliamo di grandi evoluzioni... Io non sapevo chi fossero... Nelle coppie, vabbè, mi state sconvolgendo oggi. E tutti e due nel Medioevo? e tutti e quattro, tutte e due le coppie, e tutti e quattro all'inferno. La mascotte non sta bene. Amor canulla amato, amar perdona. Mi prese per costui del bell'aspetto. Bene, dopo queste fantastiche rivelazioni sulla letteratura internazionale, direi che ci possiamo lasciare. Ci salutiamo e ci risentiamo la settimana prossima, sempre mercoledì, sempre alle 13 su Radio Città Fujiko con Dedicato. Ciao a tutti, non vi perdete la prossima puntata perché ci sarà un'intervista con The Big Drummer, il nostro Ivano Zanotti, batterista veramente tosto e da ascoltare. Ciao! Come ero ieri.